Tenta. Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Ah, bene, ne abbiamo uno. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Credo che innanzitutto sia il senso di una famiglia colpita da un dolore. Questa è l'Italia, perché ci sono le divisioni politiche, comprensibili, logiche. E poi però ci sono i valori grandi, forti, della grande famiglia italiana. Ci sono dei nostri connazionali che non rivedranno più i loro cari. Allora, di fronte a questo, innanzitutto il dolore. Io voglio ringraziare il Presidente della Repubblica che ha scelto di interrompere il suo viaggio in America Latina per accogliere le salme delle vittime, per accogliere le famiglie, per stare vicino alle famiglie. Take a walk on the wild side. Said hey babe, take a walk on the wild side. Innanzitutto una preghiera per le vittime. Poi le preghiere, minuti di silenzio non bastano più. Bisogna a interrompere le fonti di denaro che armano queste persone, che sono il petrolio e l'immigrazione clandestina, perché l'ISIS campa vendendo in nero il petrolio che estrae dai territori che controlla e gestendo il traffico di immigrati clandestini. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Siamo qui, cari ascoltatori, sono le 6:32 minuti di questo lunedì 4 luglio. Riparte una settimana di 24 mattino. Tra l'altro, vi devo informare che per tutto luglio andremo avanti fino alle 9:30, ci allargheremo un po' di più. E allora, come iniziare questa settimana in cui, come dire, come la dobbiamo iniziare? Così, insomma, parlando di quello che è successo, intanto la tragedia e l'attentato terroristico a Dhaka in Bangladesh, 20 morti, 9 di questi italiani, lo saprete già, ovviamente. C'è una cosa, ho combattuto un po' nel weekend su Twitter, su Facebook, sui social, perché sì, è vero, il cordoglio, l'orrore intanto, la prima sensazione, poi il cordoglio, la vicinanza a tutte le famiglie degli italiani colpiti, come tutte le persone colpite, gli occidentali, tutte le persone colpite anche a Baghdad. Ieri c'è stato un attentato con 120 morti, pare, moltissimi bambini, insomma, tanto il cordoglio, eccetera. E poi però ho un po' combattuto sui social perché io non ne posso più. Non ne posso più di sentir dire che la religione non c'entra. Tutti i relativisti, tutti i buonisti, tutti coloro che scrivono ma no, ma non c'entra la religione. Addirittura si arriva a dire la religione non c'entra, nello specifico ovviamente la religione musulmana, in questo caso l'Islam. Non si sa per quale riflesso queste persone dicono no, non c'entra, non so se vogliono accattivare queste persone, vogliono sminuire, vogliono essere buonisti fino in fondo. Ma come non c'entra? Ma come anche di fronte ai titoli prendono le persone, le mettono da parte, dicono sai recitare il Corano? No, e ti sgozzo. No, la religione non c'entra, non è una motivazione per queste persone. Va bene. Negare l'evidenza. Ho fatto questo accostamento anche un po' irriverente. È come quello che viene beccato a letto con l'amante. Dice, no, ma non è come ti posso spiegare tutto. Non è come pensi tu. Non c'entra. non c'entra. La religione non è un movente per queste persone, secondo alcuni. No. Infatti leggete le cronache, è stato ucciso anche un musulmano. Dicono, no, ma uccidono anche i musulmani. Certo, come quel musulmano che è stato ucciso a Dhaka perché sapeva recitare il Corano, ma a fianco a lui c'erano due amiche musulmane, anche loro vestite all'occidentale con i jeans e la maglietta. E quindi sono state uccise e quel musulmano ha detto no, allora io sto qui con loro, ha cercato di salvarle, è morto, è diventato ovviamente di questa vicenda drammatica un po' l'eroe che ha cercato fino all'ultimo di salvare le due amiche. E vabbè. (349) 238-6666, sapete il numero per i vostri messaggi, siamo qui cari amici, allora parlare anche di questo alle 6.35 minuti, so che di solito ci svegliamo con un po' più di sorriso sulle labbra, ma insomma va così oggi, c'è Paolo Corleone in regia, il nostro Peter Bescapè l'abbiamo mandato in ferie, e il nostro Lorenzo Nespoli in redazione che combatte là coi telefoni. Quando lo vedi a quest'ora che ha il telefono in mano vuol dire che c'è qualche problema. No, intanto è con noi Flavia Perina, buongiorno. Buongiorno a voi. Come va? Tutto quanto bene, compatibilmente appunto con gli avvenimenti. Avete scelto molto bene il brano di introduzione di questa puntata, sì. Perché questa è una canzone che si chiama The Dark Side, il lato oscuro. E questo è il lato oscuro del mondo di oggi. E noi pensavamo di vivere in un mondo pacificato dove la globalizzazione delle persone, dei viaggi, delle merci, della vita fosse un dato di stabilità e ormai una direzione della storia in cui tutti stavano più tranquilli. E invece fatti come questi ci fanno vedere quel lato oscuro. Il mondo non è così, il mondo sta andando da un'altra parte. Sì, e purtroppo... purtroppo è così. Allora, Flavia, noi dobbiamo aprire il Parlamento, detto che intanto il nostro Lorenzo Nespoli sta cercando Marione Adinolfi, ma non risponde, non lo so, dove è andato a finire Marione Adinolfi? Forse si è svegliato. Cioè, si è svegliato, non si è svegliato, no, non si è svegliato, non si è svegliato. Sarà, dice, suona come se fosse all'estero, quando è così sarà a Las Vegas a giocare delle fish, a giocarsi delle fish al poker. Sai che è un grande giocatore di poker? Sì, è un grandissimo giocatore. Uno dei più bravi giocatori di poker italiani. Credo uno dei più bravi addirittura. È stato uno degli unici a vincere un importante torneo internazionale di poker che non è mai stato vinto dall'italiano tranne che da lui. Esatto, e va bene, sarà lì a cercare di guadagnare un po'. Va bene, dai, apriamo il Parlamento. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo dopo si più tardi, grazie. Parlamento, forza, forza, gente, accorrete al Parlamento. Abbiamo barman generosi come Santa Claus. Li paghiamo noi e con quello che paghiamo voglio bere tanto da tornare storto come il dottor House. Allora, dicevamo, Flavia Perina, l'argomento è molto molto delicato, lo sappiamo, perché quando si toccano questi argomenti io sono stato un po' brutale. Magari poi molti mi dicono va bene, allora ti crediamo, no? su Facebook, su Twitter, un po' combattuto, ma qual è la soluzione anche qui? Ma io primo non ho la soluzione, non sono un governante, non sono un capo di stato, non siedo ai tavoli in cui si vorrei anch'io avere la soluzione, ma non la so. Secondo, non è detto che esista una soluzione su tutto, cioè forse ci dobbiamo abituare a questo mondo in cui purtroppo ogni tanto, piuttosto di recente, succede piuttosto spesso, uccidono alcuni di noi e lo fanno coloro che lo fanno in nome di Allah. Poi dopodiché non sto dicendo che sono tutti così, il 99,9% dei musulmani sono persone per bene come noi, che vogliono solo crescere i propri figli, migliorare la propria società, però il dato di fatto è che questi ci sono o no, Flavia Perina, o non si può dire. Guarda, io non condivido molto la tua tesi. L'Europa ha vissuto, non so, due secoli di guerre, tre secoli di guerre di religione, dove la religione era il catalizzatore di altro, si faceva la guerra per le solite cose, il territorio, le risorse, la conquista, eccetera, ma tutto veniva in qualche modo ammantato dal tema della religione. Le stesse crociate per riconquistare il Santo Sepolcro, poi alla fine c'erano motivi che andavano al di là del dato religioso. Anche in questo caso io penso che la religione, l'ossessione religiosa, perché poi qua non di religione si tratta, uno che ammazza due ragazze perché sono vestite in jeans e maglietta è una persona ossessionata, e è il catalizzatore di altro, è la maschera, è l'aspetto esteriore, la giustificazione anche diciamo presentabile per una parte del mondo islamico di altro. Qua si lotta come sempre ha fatto l'umanità per il potere, per la conquista di territorio, per il petrolio in alcune zone, per sconfiggere i nemici, e il terrorismo è tuttora anche una maniera con cui gli stati, proprio perché è un terrorismo finanziato, si fanno la guerra senza dichiararsela. No, ma questo che sia una maschera è ovvio, cioè anch'io so benissimo che probabilmente queste persone magari non vanno neanche in moschea, non lo so, non pregano, non mi interessa. No, l'abbiamo visto negli attentati di Parigi, negli attentati in Europa in particolare, dove questi giovani attentatori facevano una vita non sicuramente da musulmani integralisti, bevevano, fumavano spinelli, frequentavano locali gay da anni, quindi non sicuramente non a scopi di copertura, ma perché era il loro stile di vita. Queste sono nuove leve del terrorismo, arruolate in nome di una religione, che cercano il consenso in nome di una religione, ma molto spesso mosse da tutt'altri motivi, ed è per questo forse che una prospettiva, una possibilità di batterli forse ci sarebbe, perché se andiamo al di là dello schermo della religione, andiamo a individuare le vere ragioni, come che appunto sono petrolio, conquista, alleanze eccetera, forse lì si può intervenire, mentre la vedo piuttosto dura intervenire se scateniamo una guerra di religione cristiani contro musulmani. No, la guerra di religione quello mai, anche perché ci porrebbe sullo stesso piano di questi fanatici che compiono questi gesti. Allora cara Flavia, sai che abbiamo sbrandato, l'abbiamo chiamato perché così è come quando c'è bisogno di un... Ecco, adesso dico una parola, sarà un sostituto, insomma. Maurizio Bianconi, buongiorno. Buongiorno, sono il sostituto. No, sì, io sono un onesto, devo confessare. Ma lei ha ragione. Non si è svegliato Marione Adinolfi, allora l'abbiamo chiamato lei. Non so se questa cosa le fa piacere. No, anzi, è un piacere. È un piacere, no. Maurizio Bianconi, c'è Flavia Perina, ovviamente, che ascolta. Ciao Flavia. Ovviamente ciao Maurizio. Vi conoscerete da ex parlamentari. Bianconi, stiamo parlando di quello che sta succedendo ovviamente a Dacca, dove insomma io sono partito un po' a dire che chi dice che la religione non c'entra, nega un po' l'evidenza, ecco, diciamo mettiamola così. La religione c'entra nei limiti che diceva lei, diceva la Flavia, cioè la religione intanto serve a reclutare, la religione serve ad ammantare, la religione serve a coltivare l'odio e a trovare la manovalanza. E naturalmente dietro ci sono tutti gli interessi che sono stati detti. Io trovo molto singolare che abbiamo fra i nostri alleati occidentali i finanziaristi, insomma, questo è vero, c'è un mondo molto, molto articolato che però poi le conseguenze sono quelle che abbiamo visto, ecco. Ma colpire là significherebbe dire agli Stati Uniti d'America, all'Europa eccetera, smetti di trattare con l'Arabia Saudita, smetti di trattare col Qatar fin quando non si sono chiarite le cose, insomma, faccio un esempio fra tanti. Sì. E questo mi che dovremmo fare? Perché c'è qualcuno che dice non dovremmo più dare una sola arma, per esempio, a quegli stati che ha citato lei, non dovremmo fare affari con l'Arabia Saudita, cioè cose che secondo me sembrano sicuramente io penso questo, però si va nella megapolitica e non più in quello di cui stiamo trattando. Sicuramente i rapporti con l'Arabia Saudita e col Qatar vanno rivisitati per intero, non si può far finta di niente, su questo io sono abbastanza convinto. E che facciamo? Non compriamo più il petrolio dall'Arabia, no, ma non andiamo più a fare affari. Anche qui si ragiona ad minchiam, perché voglio dire, c'è modo e modo di tenere rapporti con gli stati, e siccome ci sono problemi mi sembra che questi rapporti vadano inquadrati e reinquadrati, non è che facciamo le sanzioni sono le bischiarate che rinforzano gli stati che le subiscono, non è così, mentre la questione della manovalanza è una questione seria, perché senza la gente che si fa scoppiare e che si fa ammazzare, tutto questo non ci sarebbe. Sì. E qui interviene il fatto culturale. Tra l'altro, oggi leggo per esempio il giornale, ma anche altri giornali, Repubblica intervista una giornalista italo-siriana, si dice sempre, Flavia, l'Islam moderato, a parte che è un'espressione che non mi piace, però effettivamente da parte delle comunità musulmane non vedo una sollevazione, non vedo una rabbia, non vedo a dire prendiamo le distanze, non sono niente di tutto questo, cioè, come mai? Questo in realtà non è così. In occasione degli attentati in Europa, ad esempio, le comunità musulmane sono scese in piazza, hanno fatto veglie di preghiera, hanno preso le distanze in modo stabile. Anche le comunità musulmane residenti in Occidente devono essere in qualche modo spalleggiate e coperte, e ha ragione Bianconi, quando noi intratteniamo affari e affari importanti e relazioni di grande livello con stati che ormai è chiaro a tutti finanziano questo tipo di terrorismo, lo utilizzano per la loro politica estera, e è ovvio che è un po' difficile chiedere alle comunità musulmane di fare atti di coraggio che noi non siamo disponibili a fare. Noi abbiamo isolato con un cordone sanitario per 20 anni l'Iran, ritenendolo uno stato canaglia, e anche l'Iran era un grande produttore di petrolio, era un motore del commercio mondiale, è stato duramente sanzionato e duramente isolato dal mondo per moltissimo tempo, perché veniva ritenuto appunto uno stato che stava armandosi con l'atomica e che fomentava il terrorismo. E abbiamo preso delle decisioni analoghe in passato, non vedo per quale motivo non le possiamo prendere nel presente, modificando la politica estera dell'Occidente sulla base di dati di realtà, perché questi sono dati di realtà. Questo terrorismo uccide persone inermi, uccide persone poco potenti, semplici cittadini, commercianti che vanno in giro per il mondo, va accettata questa realtà e bisogna agire di conseguenza. Sì. Le stesse comunità musulmane devono avere una copertura in questa direzione. Tra l'altro, un altro mito che in qualche modo cade, no? Perché si racconta spesso sono azioni compiute da persone emarginate, persone ai margini della società, persone sfruttate, le persone più povere di quel paese. Oggi tutti i giornali raccontano che 4 almeno dei killer, 4 dei terroristi del comando facevano parte delle cosiddette, quelle che si chiamerebbero in Italia le famiglie bene, persone che hanno studiato, uno è il figlio di un politico e uno è il figlio di uno che ha studiato all'università, uno ha studiato all'università diciamo internazionale, gente colta, gente che sapeva l'inglese, gente che probabilmente viaggiava. Insomma, non proprio gli ultimi della società, come si suol dire. Devo andare a dare le informazioni sul traffico, state con noi. E vai col traffico! Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... ...24 mattino. Cosa facciamo per combattere l'ISIS? Il governo non fa nulla, anzi, apre le porte a sti zozzoni. Scusi, lo dice anche mio marito, non è ora di fare la guerra a quei jihadisti lì. Caro Alessandro Milan, non trovi scandaloso che mentre il paese con Equitalia e le banche stesse negano il credito alle imprese, lo Stato si sostituisce per garantire alle banche quello che loro non danno a nessuna azienda che sta sul territorio? Riguardo ai cinesi, non hanno torto, hanno ragione, che lo Stato sia mafioso, solo capace a multare la gente che lavora. Milan, com'è che tra i tuoi ospiti della mattina non ce n'è mai uno dei 5 Stelle? Secondo me i casi sono due, o ti stanno sulle balle o tu stai sulle balle a loro. Pensiamoci. Non è vero, peraltro, caro ascoltatore, a volte ci sono, a volte no, ma cosa devo dire? Vabbè, insomma, queste sono le nostre, le vostre voci alla segreteria telefonica, mandatecele via WhatsApp, che magari è meglio, con gli audio, al 349-238-6666, dai, siate un pochino moderni, no? Almeno ad arrivare al 2016, ecco, tutto qua. Va bene, siamo con Flavia Perina e Maurizio Bianconi. Caro Bianconi, parliamo anche di cose italiane, dai, un attimo, cioè, le cose italiane, non so, la politica, non parliamo di calcio, per carità. Se vuole alla fine parliamo anche di calcio. Gli avevo chiesto il pronostico settimana scorsa. Io pensavo che alla fine ci si facesse, e infatti non ci siamo andati lontano. Sì, se invece di fare i ballerini sul dischetto, I fenomeni te faccio il cucchiaio, giocano fattori di cultura basica, no. C'è poco da fare, vabbè, di cultura basica, no, allora... siccome li conosco da dentro i giocatori, lo so io quanto... come funziona la... vabbè, non è che i tedeschi saranno più intelligenti degli italiani come calciatori, sono sempre calciatori, sono più disciplinati. Ah, più disciplinati, vabbè. Meno, ma no, io volevo parlare di Renzi, no, perché allora Renzi ha fatto un'intervista a Sky, a Maria Latella, e a dire che, no, questa frase che Bianconi farà subito infuriare, beh, Bianconi appena sente dire Renzi si infuria subito, ma questa frase sul patto del Nazareno, senti qua, patto, non c'è nessun Nazareno. Patto del Nazareno. Il patto del Nazareno lo ha rotto Forza Italia perché non voleva votare Sergio Mattarella. Non c'è nessun patto del Nazareno, capito, caro Bianconi? No, questa è una cazzata reale. Tanto lui è un bugiardo di natura, quindi non è che è una meraviglia che dica le cose false. Il patto ha sempre funzionato. L'idea che Berlusconi l'abbia rotto per un motivo estraneo agli accordi aziendali è una sciocchezza. Ma ha sempre funzionato cosa? Cioè, quindi c'è, lei continua a dire c'è il piatto. Ma abbia pazienza, Berlusconi si è trovato un partito, con questo renzismo, si era trovato un partito che i sondaggi glielo davano al 6-6,5%. Allora si è messo a far finta di fare l'opposizione, trovando come profasi, come pretesto, direbbe Polibio, il fatto di Mattarella, e cercando di rinforzare Mattarella all'interno di questo patto dove non c'era. Però c'è, capito, ma Perina? Inciuciano, ma io non... Non è che inciuciano. Beh, se ce ne faranno qualcosa insieme, no? Bisogna che chi ci ascolta a quest'ora, che gli girerà un po' i coglioni che deve andare a lavorare, però due dati bisogna dargli. La Mondadori si è comprata l'RDS, se Berlusconi era al governo gliela facevano mangiare RDS, cioè, no, della mia amica, no, RDS no, della la mia amica Telecom, della mia amica Rossella Brescia, no, non se l'è comprato, no, se no Rossella Brescia che lavora a RDS e poi pensa che va bene, insomma, no, 101 al limite. Ti parlo di editori di libri, della sezione libri. Ah. Poi ARCS. Esatto. ARCS. Il Cattaneo è andato a fare l'amministratore delegato di Telecom. Cattaneo il primo manager di fiducia di Berlusconi. Ah, inciuciano negli affari. È certo che inciuciano così. Ah, il suo polio pubblicitario gli è stato garantito, cioè la Gaspari gli è stata confermata. Mm. Cioè, ci sono dei dati che un cieco, soltanto un cieco, non vede. Ennio Doris, il patron di Mediolanum, è il primo sostenitore di Renzi, perché lui fa una banca intorno a lui e Renzi la protezione intorno a lui. Insomma, Perina, questo è l'impatto del Nazareno 2.0. Quindi Verdini è soltanto un avamposto. Ora che la sinistra del PD gli ha detto che la fiducia non gliela dà più, allora gli hanno detto Giovanotto fuori la testa, e ora Forza Italia gli tocca tornare. È così, insomma, Perina? Ma guarda, questa è una delle tante interpretazioni sull'idea di un Berlusconi di lotta e di governo, che in Parlamento è all'opposizione e poi sui dati di realtà invece è al governo e in qualche modo governa insieme con Renzi. Sta di fatto che se sia così, sia se non è così, questa cosa non regge più, perché le trambate elettorali che ha preso Renzi lo obbligheranno in qualche modo a cambiare strada. Questo schema qua non regge più, perché è lo schema che poi produce la vittoria del 5 Stelle. Cioè, l'idea diffusa negli italiani che l'opposizione non sia a destra ma sia da un'altra parte ha prodotto il risultato del 5 Stelle. Quindi si dovranno un po' dare tutti quanti una regolata. Penso che il centrodestra, se vuole restare in un campo con percentuali elettorali appunto superiori al 5-6%, dovrà scegliere la strada sua, ma anche Renzi dovrà scegliere la strada sua, perché se no con questa legge elettorale va sicuramente a sbattere. L'idea non di Renzi ma di un po' di tutti era quella che con questo tipo di legge elettorale ci sarebbe stata a un certo punto la Santa Alleanza contro i barbari alle porte, e cioè il 5 Stelle. Questa Santa Alleanza non è possibile, perché si è visto che la sinistra preferisce votare il 5 Stelle piuttosto che votare la destra, e la destra preferisce votare il 5 Stelle piuttosto che votare la Cina. Molti dovranno regolare. Si dovranno regolare. Comunque di politica poi parleremo dalle 8. Avremo Toti ai nostri microfoni, quello che è definito come il possibile leader a ereditare l'eredità pesante di Berlusconi. Staremo a vedere. Intanto vi ringrazio, Flavia Perina e Maurizio Bianconi. Un abbraccio, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui, E sappiate che la 166esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è già cominciata. E allora alle 7:19 minuti, buon lunedì cari ascoltatori, questa è 24 mattino e andremo in onda tutto luglio fino alle 9:30. Ci allargheremo un po' anche con Oscar e parleremo di tante tematiche, ovviamente, sullo sfondo anche quello che è la notizia principale con cui aprono ovviamente tutti i giornali: l'attacco terroristico a Dhaka in Bangladesh, 20 morti tra cui 9 italiani. Ed è proprio da questa la notizia più importante, più gettonata dai quotidiani, i quotidiani che andiamo a sfogliare. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Allora, in questo lunedì 4 luglio, la notizia che si è diffusa legata all'attentato di Dhaka è che alcuni dei terroristi che hanno colpito non erano, si usa il passato perché sono tutti morti tranne uno, pare, che è stato arrestato, non erano figli di famiglie povere, non erano persone emarginate. Spesso si dice, ma sapete, le sacche di povertà, l'emarginazione, la globalizzazione che rende misere alcune persone dal punto di vista economico spinge al terrorismo. E no, e invece almeno 4 di questi terroristi erano quello che si direbbe figli delle famiglie bene in Italia, ricchi, gente acculturata, gente che ha studiato, figli di politici, figli di persone molto influenti economicamente. Ed ecco allora che il Corriere della Sera apre così: il comando dei giovani ricchi, La Stampa, soldi e jihad, la doppia vita dei killer, per l'Unità terroristi della Villa Canto, per Repubblica funerali di Stato ma in Bangladesh, i kamikaze figli dell'alta borghesia, per il giorno tagliagole figli di papà. Il giornale invece è brutale: sgozzati dai bamboccioni, altro che marginati sfruttati dalla globalizzazione, i macellai di Dhaka sono figli di papà cresciuti nelle migliori università. Libero invece: l'Islam moderato tace, mentre Il Messaggero, la pista degli italiani nel mirino. Queste sono le aperture dedicate appunto al Bangladesh. Il Sole 24 Ore invece, l'edizione del lunedì, si dedica al fisco, la stretta anti-elusione, fa i conti con il dopo Brexit. Questo è il titolo di prima pagina. Però voglio iniziare proprio a leggere la vicenda di Dhaka con Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, che tra l'altro probabilmente più tardi sarà ai nostri microfoni, lo stiamo cercando di raggiungerlo. Racconta pagina 2 del Corriere: tutti figli di famiglie bene, diremmo in Italia, giovani promesse delle migliori scuole a Dhaka, i cui genitori sono parte dell'avanguardia intellettuale del Bangladesh, docenti, alti funzionari dello Stato, medici, politici, studenti che negli ultimi 2 anni di liceo si radicalizzano via internet, trovano i loro nuovi guru tra i leader locali e internazionali di ISIS, un mondo che per alcuni versi ricorda i nichilisti russi dell'Ottocento o certi tra i terroristi europei figli di papà degli anni 70. Questo è il ritratto che emerge dalle biografie del comando jihadista responsabile del massacro al bar caffè Holy Artisan Bakery. Sono stati per primi i giornalisti locali a segnalare questa stranezza. Dicono alcuni di loro: pensavo mi sarei imbattuto nelle figure dei terroristi tradizionali, da noi come in Pakistan, Afghanistan, bambini cresciuti tra le pieghe di povertà e conflitti, spesso profughi, addirittura orfani. Nel passato sono stati la fucina di Al-Qaeda. E invece ho trovato i rampolli delle classi più abbienti. Mi aspettavo di incontrare sottoproletari nutriti di Corano e fanatismo, ma ho scoperto ragazzi che hanno studiato inglese e non sfigurerebbero in un'università di Londra. E ci sono poi le testimonianze, per esempio, di un compagno di classe, parlano un po' a fatica, parlano sotto anonimato, compagno di classe di uno dei terroristi che dice: lo ricordo benissimo, siamo stati nella stessa classe per 5 anni, era un tipo riservato, calmo, sempre controllato. Io sono indù, lui musulmano. Per tanti nostri compagni la cosa era irrilevante, ma per lui certo no. Apparteneva a quella categoria del Bangladesh che dividono il mondo tra amici e nemici, tra musulmani e non musulmani. Però aggiunge: sono rimasto sbalordito nel sentire che era nel comando. Ricordo che appariva come combattuto da una tensione interiore, si controllava ma sembrava come rabbioso, offeso. Non so proprio per quale motivo, però la sua è una famiglia ricca e hanno anche una grande villa. Insomma, questo è il tema principale da cui prendono spunto tutti i giornali nell'analisi di quello che è successo. Terroristi, figli della società bene del Bangladesh. E poi, come dire, ci sono anche le testimonianze. Ancora hanno una grande forza. Leggere, per esempio, quello che Gianni Boschetti racconta all'inviato di Repubblica Raimondo Bultrini da Dacca, a pagina 6. Chi è Gianni Boschetti? Intanto, Gianni Boschetti è il marito di Claudia D'Antona, una delle 9 vittime. Lui si è salvato perché, pensate, è arrivata una telefonata quando erano al ristorante, allora si è allontanato un attimo nel giardino. In quel momento sono entrati i terroristi e lui si è nascosto per ore nel giardino, tra i cespugli. E dice: riuscivo a vedere solo una parte del ristorante e i movimenti dei terroristi che facevano avanti e indietro. L'ultima volta che ho sentito la voce di mia moglie è stata quando ha gridato il mio nome dall'interno del locale. Non mi ero ancora nascosto quando ho notato 2 dei terroristi alle mie spalle e non so perché non mi abbiano visto, ma in quel momento pensavo solo a salvare la vita. Ovviamente racconta poi le ore immobile tra i cespugli, una cosa orribile, col cuore in gola di paura, la preoccupazione di quello che succedeva dentro, con la sensazione angosciante di non vedere mia moglie. Io non osavo uscire perché i terroristi osservavano fuori dalle finestre, ma quando stava per fare alba mi son deciso, sono andato non visto al cancello d'uscita. Ma c'era caos di polizia? Ma che? Il primo intervento è stato all'esterno, gli agenti si sono ritirati dopo che ne hanno uccisi 2 e feriti parecchi, poi silenzio e di tanto in tanto scariche di fucile, un delirio. Sono rimasto sdraiato 3 ore senza muovere un muscolo finché ho avuto i crampi e mi sono mosso. Poi ovviamente la conclusione, la scoperta delle vittime, tra cui anche sua moglie, dice: quando ho visto quei lenzuoli macchiati di sangue nell'obitorio, mi creda. Fino a quel momento, chissà perché, speravo che mia moglie fosse viva. E certo, come ha detto in un'altra testimonianza, credo ieri, vivrà anche con questo senso di colpa. Insomma, si è nascosto, ha salvato la propria vita, ma certo penserà tutta la vita della moglie dentro, invece, che veniva uccisa. È una storia analoga, anche se non la può raccontare, a quella di un'altra vittima. Faraz Hussein è una delle 3 vittime musulmane di questo attacco. Faraz, musulmano, come raccontano tutti i giornali, ha scelto di morire per difendere le sue 2 amiche. Sapete che i terroristi, come è stato raccontato, chiedevano: sai il Corano? Sai recitare il Corano, per distinguere tra musulmani e non musulmani e per lasciare liberi i musulmani e uccidere invece i non musulmani. Ebbene, Faraz Hussein poteva salvarsi, come racconta Viviana Mazza sul Corriere della Sera a pagina 7, perché lui il Corano lo sapeva. E quindi, quando è stato interrogato da questi assassini, aveva recitato un passo del Corano, poteva lasciarsi alle spalle la morte, il sangue, puoi andare. E lui però ha detto: e le mie amiche? Perché era lì con due amiche. Le amiche invece erano sì musulmane, ma vestite all'occidentale, con i jeans, con la camicetta. E allora i terroristi hanno detto no, e lui ha deciso di rimanere con loro. Ora la madre dice: darei tutto per avere mio figlio indietro, ma non avrebbe mai perdonato se stesso se avesse lasciato le sue amiche là dentro. Secondo i testimoni, anche all'obitorio aveva le mani ferite, con ferite da lama, come se questo ragazzo avesse tentato proprio di difendere anche fisicamente le due amiche al momento dell'esecuzione. E i giornali dedicano, il Corriere ma anche Il Giorno, una pagina: il sacrificio del giovane musulmano sgozzato per difendere le amiche. E questo c'è. Vabbè, che dire. Riprendiamo da qui dopo la pubblicità. Gli articoli sono ancora tanti. Ovviamente Dacca in primo piano. Come dire, oggi le mani sul volante sono sospese. D'altronde un articolo dopo l'altro sono tutti da mani sul volante, o no? Agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Alessandro Milan, il gnocco fritto dell'informazione. E allora, eccoci qua, mandate le vostre sigle al 349-238-6666, sono le 7:34 minuti. Continuo a leggere i tanti articoli dedicati alla strage del Bangladesh a Dhaka. Allora, intanto c'entrano gli italiani, o meglio, la domanda è: volevano colpire gli italiani? Secondo la maggior parte degli analisti, no, hanno colpito semplicemente un hotel, un ristorante dove stavano occidentali. Certamente era una zona nel mirino molto osservata. Però c'è questa pista dei ROS, quindi dei carabinieri, volevano colpire gli italiani. È messa in prima pagina dal Messaggero, pagina 6 poi l'articolo, Marco Conti e Cristiana Mangani. In realtà c'è la Farnesina cauta, cioè il Ministero degli Esteri, ma gli italiani erano l'obiettivo principale del comando bengalese. Questa ipotesi prevalente è contenuta in un'informativa che i carabinieri dei ROS hanno inviato in procura. È probabile, come accaduto per Nassiriya in Iraq e in altre occasioni simili, ufficiali dei carabinieri presto vengano inviati a Dhaka per indagare su quanto accaduto. Nella capitale del Bangladesh sono già presenti uomini dei servizi segreti che stanno lavorando con americani e inglesi per ricostruire la dinamica del massacro. Ciò che però per gli investigatori prende forma è l'obiettivo non casuale dell'azione, svolta dentro un locale molto in voga e frequentatissimo da italiani. Addirittura, se saltiamo sul giornale, Fausto Biloslavo ha questo retroscena raccontato poi a pagina 6 che suona più o meno così: il giallo su un tweet dell'orrore che annunciava la strage 10 ore prima di quanto sia avvenuta. Un quotidiano del Bangladesh racconta: il programma dei terroristi è stato postato 10 ore prima della carneficina. Ecco, vengono anche pubblicati i proclami d'odio, i presunti tweet lanciati da terroristi in Bangladesh che avrebbero annunciato l'attacco nella zona diplomatica della capitale. E se fosse vero, racconta Biloslavo, l'intelligence avrebbe mostrato tutta la sua inadeguatezza nel far fronte a questa minaccia. Però insomma, qui siamo nell'ambito del giallo, ecco. Fiorenza Sarzanini ripone tutto in un'ottica più italiana, dicendo che ora è allo studio, secondo il governo, una cabina di regia per gli italiani nelle aree a rischio. La paura ora riguarda le comunità italiane all'estero, gruppi più o meno integrati nei vari paesi dove la radicalizzazione degli islamici è forte. Allora si pensa a una cabina di regia per, insomma, proteggerli meglio. Tra l'altro, alla fine di questo articolo si ritorna su una vicenda che ha creato non poche polemiche politiche in Italia e viene rilanciata dal Corriere della Sera, cioè si riparla di un ruolo operativo per Marco Carrai, amico che più volte Renzi ha detto di volere nel proprio staff per occuparsi di cybersicurezza. Non è escluso che la nomina possa arrivare a breve. Vi segnalo da Repubblica, pagina 4, un'analisi interessante è di Rukmiki Kallimaki, è apparsa sul New York Times e viene pubblicata da Repubblica. È la geografia del terrore e riguarda che cosa? Al-Qaeda, lo Stato Islamico, la guerra all'Occidente, partendo ovviamente da un'analisi del Bangladesh, dove il primo a essere stato ucciso è stato Cesare Tavella, cooperante italiano di 50 anni che faceva jogging. Poi la polizia disse che gli assassini avevano ricevuto istruzioni di uccidere uno straniero bianco a caso. A ottobre è stato poi ucciso un giapponese. A novembre uomini armati a bordo di una motocicletta si sono avvicinati a un prete cattolico del nord del Bangladesh e hanno aperto il fuoco ferendolo. Insomma, l'organizzazione terroristica dello Stato Islamico, che ai militanti che spedisce in Europa raccomanda di uccidere chiunque e chi che sia, in Bangladesh apparentemente adotta tattiche più selettive. Negli ultimi 9 mesi Daesh o l'ISIS ha rivendicato 19 attentati in Bangladesh, quasi tutti omicidi mirati, l'uccisione di un indù a colpi d'ascia, l'uccisione di un predicatore sciita a colpi di coltello, l'uccisione di un musulmano accusato di essersi convertito al cristianesimo, l'invio di attentatori suicidi in moschee sciite. Per anni lo Stato Islamico ha portato avanti una campagna di massacri su larga scala in Siria e Iraq, ma se si va a guardare più da vicino l'ultimo attentato in Bangladesh, la sensazione è che adotti approcci diversi a seconda delle regioni in cui opera e del pubblico, tra virgolette, pubblico a cui si rivolge. È un'analisi interessante che continua, la trovate a pagina 4 di Repubblica, come l'ISIS colpisce in giro per il mondo. E va bene, gli articoli sono tantissimi, ovviamente ho fatto un estratto di quelli che ritengo più interessanti sul tema. Sul tema ISIS ce n'è un altro che mi ha molto colpito. A pagina 9 della Stampa, ricordate Salah Abdeslam, unico arrestato dagli attentati di Bruxelles? La Stampa con Leonardo Martinelli racconta da Parigi: Salah detenuto VIP con un bilocale tutto per sé nel carcere sovraffollato. Mi ha fatto un po' specie leggerlo, ma il detenuto più famoso della prigione, Salah Abdeslam, franco-belga, 26 anni, unico jihadista sopravvissuto agli attentati di Parigi, non di Bruxelles, ma di Parigi effettivamente, è stato riservato un piano intero con ampio spazio disponibile, una piccola palestra personale. Questo in un carcere sovraffollato, d'altronde lui deve stare in isolamento. Viene anche controllato 24 ore su 24 con telecamere per il rischio che si tolga la vita. E invece deve prima essere interrogato e parlare. Comunque ne viene fuori il profilo di un detenuto VIP. Questo almeno raccontano due giornalisti che insieme a un deputato, Thierry Soler, sono riusciti a entrare nel carcere per visitarlo. E hanno visto in che condizioni vive. Ha la TV, guarda tutto il giorno i reality show, cucina, si sveglia alle 11 del mattino. Questo è il racconto a pagina 9. Della Stampa. Lasciamo questo tema per andare all'altro sullo sfondo, quello della Brexit. Oggi vi voglio segnalare un'intervista sul Corriere della Sera a Wolfgang Schäuble, che è il ministro delle finanze tedesco. Sono 3 giornalisti tedeschi che per il Weltansonntag lo intervistano. L'intervista viene riproposta dal Corriere della Sera e dice Schäuble: attenta Europa, è l'ora più seria, se Bruxelles si ferma faranno i governi. Parla della Brexit. Si è visto chiaramente che Boris Johnson non aveva alcuna risposta alla domanda quale piano avete per implementare la Brexit, e per questo Johnson si è ritirato. Non mi è mai piaciuto, ma il modo in cui ha condotto la campagna non corrisponde alla mia idea di responsabilità e serietà. La Brexit per me è un dolore che provo ancora oggi. Sono scioccato. Riguardo a cosa fare ora, la decisione spetta solo al governo britannico. L'Europa fa bene in ogni caso a chiarire a Londra. Da voi pretendiamo che vi decidiate e piuttosto in fretta. Poi parla della possibile fine dell'Unione Europea. Il primo compito, risponde Schäuble, è evitare il conflitto e continuare con la solita retorica. Ma per favore, cosa dovrebbe significare ricostruire l'Europa? Vogliamo cestinare tutti i contratti, ricominciare da capo? Non può essere che lo dicano sul serio. Dobbiamo certamente continuare a essere seri. E ora però è importante far di tutto per escludere il pericolo che la decisione britannica degeneri in conflitto politico. Questo dice Schäuble, ministro delle finanze tedesco, in questa intervista che trovate sul Corriere della Sera, in realtà l'intervista appunto di Veltan Sontag riproposta dal Corriere. A proposito però di Europa, di banche, la notizia pubblicata da Repubblica in prima pagina è una notizia di quelle importanti, soprattutto per una banca, cioè il Monte Paschi Siena. Andrea Greco racconta che dalla BCE, proprio prima del Brexit, prima del referendum, ma se ne viene a sapere solo ora, è partita una lettera con un tempismo a dir poco bislacco, scrive Repubblica, una lettera arrivata alla vigilia del referendum sulla Brexit, mittente appunto la BCE di Francoforte, destinatario il Monte dei Paschi di Siena. Si chiede questo, è un ultimatum da parte della BCE, smaltite 10 miliardi di sofferenze. Pochi e lapidari concetti in questa lettera finora riservatissima, Monte dei Paschi presenti al più presto un piano triennale per riportare a livello fisiologico la percentuale dei crediti in sofferenza della banca. Tradotto in cifre, significa più o meno che i banchieri senesi devono compilare una nuova mappa per smaltire almeno una decina di miliardi di euro di sofferenze lorde degli oltre 27 miliardi che ne frenano da anni il rilancio. Questa è la lettera ultimatum, definita così da Repubblica a Monte Paschi, con Renzi che è pronto, scrive Repubblica, a combattere per le banche in Europa. Questo è, caro Mauro Meazza, questo è l'uomo che calcia i rigori meglio di Radio 24 e del Sole 24 Ore, senza quei balletti alla Zazza e alla Pellè. Va bene, Mauro, come stai? Buona giornata, sto, come dire, sto pronto per la lettura dell'endecasillabo del lunedì. Con, che però in questo caso vorrei eccezionalmente ribattezzare come gli indaca sillabi del lunedì. Non so se vuoi stare indaca sillabi del lunedì. Se posso, con il tuo permesso, ma anche senza, prego. Vado a leggere. Toni truante venne con gran botto lo sdegno per le pratiche furbette nei giorni che l'Europa era a 28 e non si era ristretta a 27. La pacchia finirà, come un sol uomo giurarono per sanzioni assai più strette contro le società del punto com che delle tasse nostre san polpette. E dico tanta speme oggi che resta, se la Britannia se ne va all'inglese, il Sol 24 Ore te l'attesta nel primo lunedì del nuovo mese. Ancora ti porgiam come carezza la guida agli risparmi e alle pensioni, sollievo in questa estate di incertezza quando le borse fanno gli scivoloni. Valori dell'Italia digitale e dell'economia dello sharing. Così ti vizia oggi sto giornale, prezioso anche di più di un vaso Ming. E il popolo nerazzurro impara già il coro che lo rende più entusiastico. Van ripetendo tutti, forse il do, mentre alla radio sopraggiunge il traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Milan Alessandro, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dell'informazione. Beh, insomma, cioè non finisco mai. Questo è il concetto. Ah no, a dicembre finisce. Ha detto Renzi che ieri ha parlato con Maria Latella in intervista a Sky e ha detto è lunare parlare dei miei due ruoli nei giorni in cui tra l'altro si parla anche della vicenda di Dacca, no? I ruoli sono premier e segretario del PD, visto che oggi tra l'altro c'è la, credo oggi, sì, la direzione del Partito Democratico. È un Renzi che ha parlato dell'Italicum, insomma cose di politica italiana. A proposito di politica, invece, non c'è giorno senza la pena per il Movimento 5 Stelle per quel che riguarda Roma. Davvero sembra un parto che non finisce più, questo della nuova giunta, che non è stata ancora completata, deve essere completata entro il 7 luglio, giorno della prima seduta del Consiglio Comunale. E però che cosa succede? Pare, secondo tutti i giornali, che stiano litigando alquanto per la formazione della giunta, tanto che Beppe Grillo è dovuto intervenire telefonando a Virginia Raggi, sindaco di Roma, e oggi ci sarà un vertice, il vertice per superare lo stallo, la battaglia per nomi e deleghe. Questo è il titolo, per esempio, di pagina 15 del Corriere della Sera. La nomina, per esempio, di Frongia, che è stato messo capo di gabinetto, non va bene, secondo alcuni del Movimento 5 Stelle. È stata fatta questa nomina senza consultare il direttorio, allora forse verrà dirottato a vice sindaco. Poi è stato scelto Marra come segretario generale, credo, come ruolo. Comunque uno che ha lavorato e collaborato anche con Alemanno, e questo ha creato altri mal di pancia all'interno del Movimento 5 Stelle. Insomma, l'appuntamento decisivo, scrive il Corriere, è fissato per oggi. Ah, decisivo. Anche qui, nel tardo pomeriggio, da una parte ci sarà Virginia Raggi, dall'altra i membri del mini direttorio alla romana del Movimento 5 Stelle. L'obiettivo? Superare le tensioni di questi giorni e provare ad arrivare a una quadra, come si definisce in politica, una quadra definitiva della giunta capitolina. Questo racconta Ernesto Menicucci, dicendo che il ruolo chiave è in mano a Di Maio. Tutti si sono un po' defilati. Beppe Grillo ha chiamato Virginia Raggi e poi Di Maio è andato a cena, lui e lei, con Virginia Raggi, per cercare di risolvere, appianare tutti i contrasti. Secondo alcune ricostruzioni, addirittura Virginia Raggi avrebbe posto a Beppe Grillo le dimissioni sul piatto, quasi proprio dopo, senza neanche avere cominciato a fare il sindaco di fatto. Comunque, anche per il Messaggero, Roma giunta ancora incompleta, pressing di Casaleggio sulla Raggi, mentre Jacopo Iacoboni sulla Stampa racconta di un vero e proprio manuale Cencelli, cioè quel metodo a vecchia politica in cui ci si spartiva in base ai voti dei partiti le poltrone, il manuale Cencelli del Movimento 5 Stelle, un manuale che, racconta la Stampa, di cui siamo entrati in possesso e che prevede proprio in ogni commissione, sono tutti i nomi che vengono messi sulla Stampa, uno viene messo in una commissione perché è vicino, che ne so, alla Lombardi, un altro perché è vicino alla Raggi, un altro perché è vicino, insomma, un bilancino per una poltrona per ognuno vicino a ogni, si definirebbe nella vecchia Democrazia Cristiana, corrente del Movimento 5 Stelle. Va bene, questo è almeno quello che raccontano i giornali. Lasciamo la politica, veniamo alla cronaca. C'è un articolo del Giorno che riguarda quella che viene definita la casta dei cieli. Aeroporti nella bufera, domani all'Italia i piloti scioperano, e viene definito al Giorno lo sciopero dei ricchi. I piloti difendono benefit e privilegi. Domani stop dei voli dalle 11 alle 15. Si ferma anche Meridiana. La questione di Meridiana è più delicata anche per una lunga trattativa sindacale. Comunque Matteo Palo racconta sul Giorno: la casta volante ancora tra noi. È così che va letto lo sciopero del personale di volo all'Italia in programma domani dalle 11 in poi, anche se la stagione d'oro dei benefit per i piloti della compagnia di bandiera ormai è nei libri di storia, qualche residuo resta ed è duro a morire, come per esempio il maxi fondo pubblico che paga peso d'oro con i biglietti aerei, i trattamenti di mobilità, o come le costosissime agevolazioni per i pendolari dei cieli che volano a spese dell'azienda. Tutti i privilegi per i quali è legittimo andare alla guerra con la proprietà, che vorrebbe invece pensare a recuperare circa 199 milioni di perdite totalizzate nel 2015. Questo è lo scenario descritto dal Giorno per quel che riguarda questo sciopero. Oh, che dire, siamo in rapida conclusione. C'è molto di calcio, ovviamente, il racconto soprattutto dei rigori. I rigori, eccoli lì, gli italiani, l'Italia. Abbiamo vinto, è vero, un mondiale contro la Francia. I rigori, ma ciò non basta, secondo le statistiche, la Gazzetta dello Sport. Insomma, ne abbiamo perso anche uno, per esempio, negli Stati Uniti contro il Brasile ai rigori. Ma il virus dei rigori è ciò che colpisce gli italiani. Italia, sempre il solito dischetto. sempre il solito dischetto. Siamo usciti anche nei quarti di finale 98 Francia-Italia, per esempio, con Gigi Di Biagio che tirò sulla traversa. Ma poi qui ci sono stati questi due rigori tirati in un modo, come definire, quello di Zaza con questo balletto molto strano prima del tiro, quello di Pellè che si è preso pure la briga di prendere in giro Neuer dicendo te faccio lo scavetto, stai zitto, così. E ovviamente Zaza e Pellè, anche se non sono gli unici ad avere sbagliato, sono i più presi di mira dei social, anche presi in giro con tanti fotomontaggi. Loro chiedono scusa. Psicodramma solito dagli 11 metri per gli italiani, e vabbè, gli europei sono in archivio. Vabbè, andiamo alla carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali è questo: una pagina del Corriere della Sera intera di Maria Luisa Agnese, che racconta il dramma del Nobel Vargas Llosa, che chiede la mano a una donna, ma per il Perù non è divorziato e quindi rischia la denuncia per bigamia. Ma chi se ne frega!